edizione. Breve aggiornamento che arriva dal Guatemala, dove l'ex generale Otto Pérez Molina, 61 anni, ha vinto il ballottaggio di ieri ed il nuovo presidente del piccolo paese centroamericano. Questa è la notizia di poco fa, ci ritroviamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. 6, 17 minuti e 31 secondi, veniamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera, che mette in alto come titolo quello dedicato al maltempo: crolla un ponte, ansia per il Po, un morto e due dispersi al sud, e presenta anche un commento, un editoriale di Claudio Magris: acqua alla gola, coscienze sporche, questo il titolo. L'editoriale di prima pagina vero e proprio invece è un editoriale dedicato alla politica, naturalmente. Tutte le spine dell'emergenza, firma Angelo Panebianco, e tre strade possibili nell'incertezza. Questa è quella che identifica Panebianco. Il titolo forte invece a centropagina è governo sempre più in bilico, nuova uscita, Maroni che dice inutile accanirsi, e il premier che dice ho i numeri, l'opposizione verso la mozione di sfiducia, anche Gabriella Carlucci passa dal PDL all'UDC. C'è anche un titolo dedicato alla Grecia, come raccontavamo nel giornale radio, un accordo per l'unità nazionale, di taglio basso un titolo dedicato alla vicenda di Milano: si apre la portiera di un'auto in divieto di sosta e un ragazzino di 12 anni cade sotto il tram, morire in bici a 12 anni tornando a casa. Questo il titolo. Andiamo alla Repubblica. L'apertura della Repubblica è proprio sulle parole del ministro dell'Interno Maroni: inutile accanirsi, è finita. Questo il titolo. La maggioranza non c'è più. Berlusconi resiste, ho i numeri, vado avanti. Il retroscena a firma di Francesco Bei parla del segretario del PDL e del vice e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta, quindi Alfano e Letta, che vanno a Berlusconi e gli dicono: Silvio, sali al colle e dimettiti. A centropagina, grande foto della piena della Dora Baltica in Piemonte di maltempo, vi ricordo che poi parleremo ancora una volta più avanti, in attesa anche della piena del Po, si vede una bella foto nella quale si vede la Dora Baltea molto ingrossata nei pressi di un ponte e vicino ad alcune case. Paura per il Po in piena, Torino assediata, maltempo anche al sud, un morto a Napoli. Ci racconta invece in un titolo si racconta delle vicende europee che riguardano l'Italia. L'Europa vigilerà sulle riforme italiane, ed è il giudizio del ministro degli esteri francese Alain Juppé. L'Italia ha un problema di credibilità, bisognerà assicurarsi che le riforme siano fatte. Si parla anche in prima pagina su Repubblica del ritorno di Celentano tra rock e impegno, e della rincorsa di Obama, un anno per risorgere. I titoli dedicati allo sport sono dedicati su tutte le prime pagine, naturalmente, al Milan, il poker del Milan con il super Robinho. La Stampa, Maroni, la maggioranza non c'è, questo il titolo di apertura della Stampa, dice inutile accanirsi ma Berlusconi non molla, abbiamo i numeri. Ancora, scontro con il Fondo Monetario, controlli sulle riforme italiane, il Premier, li abbiamo chiesti noi, Lagarde insiste su privatizzazione pubblico impiego, Palazzo Chigi, le verifiche riguardano soltanto i conti. A centropagina la piena del Po, la grande piena del Po tra timore e curiosità, segnaliamo anche la vicenda di Hickstead, campione olimpico, un cavallo, parliamo di un cavallo, il re degli ostacoli, che è morto in diretta, addio al cavallo imbattibile, crollato a terra a Verona davanti a migliaia di spettatori. Segnaliamo anche l'intervista a Luca Cordeiro di Montezemolo, il presidente della Ferrari, servono più teste e meno aerodinamica l'anno prossimo con Alonso e Massa, e dice il titolo è o la terza auto o addio Formula 1. Così la stampa, il Sole 24 Ore, edizione del lunedì, come sapete, interessante il titolo di apertura, metà delle imprese paga più tasse, i dati sui bilanci 2010 delle società indicano un aumento del prelievo soprattutto nel settore dei servizi. E poi si parla anche dei giochi aperti nel maxi emendamento sulla riduzione del carico tributario. Misure che arrivano in Parlamento, editoriale Fabrizio Forché, l'ultima chance giocando a carte scoperte, questo il titolo, ma c'è anche un nuovo capitolo del manuale antipanico, come gestire i prodotti del risparmio postale. Il Messaggero, titolo è la maggioranza non c'è più, ancora una volta le parole di Maroni. Il titolo di sport a centropagina è dedicato in questo caso invece alla Lazio, festa all'Olimpico, la Lazio vola in testa, titolo anche sul maltempo che colpisce il sud. E è interessante la vicenda della svolta nel delitto Pasolini, trovato il DNA del terzo uomo, scrive il Messaggero, e questo è il quadro per quanto riguarda i quotidiani italiani. Vi rimando come sempre al nostro Alessandro Milan, che sarà più preciso e puntuale nelle segnalazioni. Noi andiamo a dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani esteri. Il New York Times dedica un'analisi ai mercati dal titolo "In Europa i mercati in ansia spostano il focus sull'Italia". Ci sono anche interviste a gestori che raccontano le preoccupazioni per la settimana che si apre. Il Financial Times, ovviamente, ancora l'apertura sulla Grecia e sul voto, ma a far discutere da noi l'editoriale di questo fine settimana del Financial Times, ne avrete sentito parlare, che il titolo era "In God's Name Go", dedicato a Silvio Berlusconi, "Nel nome di Dio vattene", che si chiude dicendo appunto "Nel nome di Dio, dell'Italia e dell'Europa, vattene". Questo per quanto riguarda il Financial Times. Il Wall Street Journal ovviamente apre sulla Grecia, ma è da segnalare l'evidenza che si dà alle notizie che arrivano dalla Germania, dove la coalizione di Angela Merkel avrebbe trovato un accordo per un taglio delle tasse sui redditi da 6 miliardi di euro. Potrebbe scattare nel 2013, soldi che serviranno per investimenti in infrastrutture e nella social security, cioè nel welfare. Infine, sempre dai quotidiani stranieri, vi segnaliamo da Le Figaro la notizia che, al di là dell'apertura dedicata ancora una volta alla Grecia, la notizia che il governo dovrebbe presentare oggi, il governo francese, un nuovo piano di austerità. La priorità sarà ad alcune misure probabilmente impopolari, e alcune riguarderanno anche in questo caso le pensioni. Questo è il quadro dei quotidiani, ci ritroviamo tra un attimo per il giornale radio. Prima edizione. Le 6:33 minuti e 18 secondi è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi 7 novembre si apre una nuova settimana dedicata all'inchiesta e al reportage a quest'ora con Daniele Biacchessi. C'è davvero, come sostiene il ministro Maurizio Sacconi, la possibilità che il terrorismo brigatista riprenda a colpire in Italia? Il reportage di Raffaella Calanda. Dell'interno tace e non è un caso. Colui che è il titolare dell'ordine pubblico e della sicurezza ha risposto col suo silenzio alle polemiche e agli allarmi rilanciati su un rinnovato rischio terrorismo. Al Viminale sanno perfettamente che il clima del paese è molto difficile, che la crisi arroventa la tensione sociale con tutte le conseguenze, ma non ci sono informative precise, ci ripetono, su un effettivo pericolo brigatista. Eppure il fantasma aleggia nei dibattiti dopo essere stato evocato dal ministro del welfare Maurizio Sacconi. Ho paura, ma non per me, perché sono protetto, ho paura per persone che potrebbero non essere protette e proprio per questo diventare bersaglio di una violenza politica che nel nostro paese non si è del tutto estinta, Oggi vedo una sequenza dalla violenza verbale alla violenza spontanea, alla violenza organizzata, che mi auguro non arrivi ancora una volta anche all'omicidio, come è già accaduto l'ultima volta 10 anni fa proprio con il povero Marco. Il ricordo di Marco Biagi, giuslavorista ucciso a Bologna nel 2002 dalle Brigate Rosse, diventa così un allarme ben preciso che si inserisce nelle discussioni sulla riforma del mercato del lavoro e nelle riflessioni sui rapporti tra tensione e violenza, esplose soprattutto dopo i disordini di Piazza San Giovanni a Roma. Lo stesso ministro, davanti alle telecamere di Sky, evoca quella piazza a ferro e fuoco e l'assalto alla camionetta dei carabinieri. Ma una settimana prima, nelle stesse ore in cui Molotov e lacrimogeni bruciavano la capitale, in un'intervista a Radio 24 evocava sì gli anni 70, ma non credeva ad un rischio terrorismo. Sono minoranze radicali, antagoniste. Purtroppo questi giovani hanno avuto cattivi maestri e cattivi genitori, formatisi nei terribili anni 70. Non vorrei che anche questi giovani oggi spaccano e domani fanno proprio quei finanzieri e quei banchieri spesso cinici. Come mai soltanto in Italia queste manifestazioni sono degenerate in scontri? Anche altrove ci sono state maggiori adesioni e maggiore violenza. In Italia c'è anche una forte componente di importazione. Questo accade perché in Italia si è mantenuta una coesione sociale dovuta alle caratteristiche della nostra società. Avete ascoltato la prima edizione di Italia in Controluce. Torniamo oggi alle 13.30 per la seconda edizione su Radio 24. Sono le 6:36 minuti e 46 secondi, di nuovo una buona giornata dunque da Simone Spezia, e veniamo a parlare di maltempo e di quello che sta succedendo in queste ore. Come sapete, ci sono state situazioni difficili al sud, ci sono 2 persone disperse nella provincia di Matera, una vittima ieri a Pozzuoli, e massima attenzione per quanto riguarda i fiumi in Piemonte. Saluto l'ingegnere Ivano Galvani dell'AIPO, che è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Buongiorno ingegnere. Buongiorno. Allora, com'è la situazione del Po? Partiamo proprio da quello, naturalmente. Diciamo che c'era e c'è ancora una situazione di attenzione nella zona del Piemonte, nei pressi di Torino, dove i massimi livelli sono stati raggiunti in queste ore, e poi diciamo abbiamo attenzione nella zona dove il Tanaro entra in Po, ma comunque, e poi via via verso valle, ma nelle zone verso valle, nelle zone verso Parma, verso Reggio Emilia eccetera, prevediamo condizioni comunque di piena, ma di piena diciamo che possono considerarsi nella normalità per adesso. Controllabili comunque. Sì, sì. Ma questa benedetta onda di piena del Po che doveva arrivare nella notte, è arrivata, è passata a Torino oppure no? Torino, dai dati che abbiamo, da quello io adesso non sono a Torino, abbiamo i nostri tecnici che stanno presidiando, ma i dati di rilevamento idrometrico ci stanno dicendo che i livelli massimi sono stati raggiunti. Adesso c'è un po' di attenzione, di preoccupazione, perché potrebbe esserci nelle prossime ore, verso la tarda serata, un'accentuazione della meteorologia che dice che potrebbe piovere ancora in quelle zone, però diciamo potrebbe accodarsi diciamo quella, la successiva portata in coda a quella diciamo che è già transitata. Quindi l'onda di piena è passata senza danni, in sostanza, questo sì, ci sta diciamo dicendo. Che c'era allerta, ma sapevamo insomma che comunque la portata nella zona di Torino sarebbe stata contenuta. Ecco, per quanto riguarda altri fiumi, come per esempio penso ad esempio alla Dora Baltea, sulla quale mi è sembrato di capire che ci fosse una certa preoccupazione, ingegnere. Sì, sì, anche lì c'era attenzione, comunque diciamo i valori anche in quelle zone, anche il Pellice aveva diciamo delle situazioni di criticità, comunque erano situazioni che erano sotto controllo e quindi c'era il massimo allerta per eventualmente sgomberare se si determinavano delle situazioni diciamo di complicate. Ecco, invece ritornando a quel che riguarda il Po e al di fuori del Piemonte, diciamo, ci sono preoccupazioni per altre zone, insomma? No, per adesso diciamo il Po uscendo dal Piemonte entra in prati fasciati dove le arginature sono state consolidate nel tempo e attualmente prevediamo che i livelli siano molto contenuti dentro, diciamo, le opere di difesa. Siamo su valori, diciamo, di piene che si possono manifestare, ecco. Dalle indicazioni meteo che avete, che cosa vi attendete per i prossimi giorni, ingegnere? Ma diciamo c'è attenzione per diciamo un peggioramento nella zona del Piemonte e anche della Liguria, da quello che sappiamo, nella tarda serata di oggi e nella mattinata di domani, e poi le previsioni almeno dovrebbero confermare un miglioramento che porterà, diciamo, bel tempo fin verso la settimana, e quindi questo dovrebbe darci una mano, diciamo, a gestire con tranquillità gli eventi che si stanno determinando. Grazie dunque all'ingegnere Ivano Galvani dell'AIPO, che è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, per essere stato con noi. Buona giornata, ingegnere. Grazie a voi, arrivederci. E adesso passiamo a parlare di mercati. Si prevede un'altra settimana piuttosto intensa. La notte ha portato la data elettorale per la Grecia, il 19 di febbraio. Il focus, come già dicevamo poco fa, citando quel che scrive oggi il New York Times, i mercati ansiosi spostano la loro attenzione sull'Italia. Proprio di questo parliamo con la nostra Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti, speriamo che lo sia anche per i mercati, ma non ci crediamo moltissimo. Allora, che cosa dobbiamo attenderci secondo te dalla giornata di oggi? Che idea ti sei fatta? Ma guarda Simone, è difficile poter dire cosa succederà oggi anche nei prossimi giorni, perché come sempre anche noi giornalisti ci affidiamo un po' agli esperti su queste materie e loro stessi non riescono più a fare previsioni particolarmente precise, soprattutto da quando la variabile politica è diventata l'unica variabile che muove i mercati. Questo sta succedendo da qualche tempo, lo si è visto con chiarezza martedì scorso, il 1 novembre, in questa giornata nera per i mercati, quando la borsa si è svegliata con, come ricorderete tutti, la decisione del governo greco di indire il referendum per sottoporre al giudizio appunto dei greci le misure di austerità chieste dall'Europa per avere la nuova tranche di aiuti. Questa vicenda martedì ha fatto partire un domino a non finire che ha portato una pioggia di vendite che hanno colpito tra l'altro, come si sa bene, l'altro grande centro della tempesta finanziaria recente che è l'Italia, che ha avuto martedì un crollo del 7%, poi una ripresa nel corso delle giornate successive, un nuovo ribasso pesantissimo venerdì, e quindi venerdì c'è stata appunto questa giornata di nuovo da brivido, soprattutto sul mercato obbligazionario, che è il grande osservato speciale anche di queste ore, con il nostro famigerato spread tra i titoli italiani appunto a scadenza decennale e quelli tedeschi, che ha toccato i 460 punti base. Poi ancora, tanto per finire di riassumere la settimana, si è conclusa appunto con il famoso, chiamiamolo così, anche se non piace questa definizione, commissariamento dell'Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale e dell'Unione Europea, che da qui alle prossime settimane vigileranno sull'attuazione del piano per la crescita italiano e sul ristabilimento appunto dell'ordine dei conti pubblici. Per cui ecco, queste sono un po' le notizie che movimentano le nostre sedute, e non, siccome gli esperti, gli investitori non riescono in questo momento a guardare ai fondamentali di borsa, ai conti delle società, ci sono altri aspetti che condizionano le sedute, diventa molto difficile appunto fare delle previsioni. Sì, tra l'altro Deborah, oggi si riunisce un'altra volta l'Eurogruppo. Esattamente. Voglio dire, però la sostanza è che le riunioni, i grandi vertici internazionali non sembrano aver prodotto questi grandi effetti sui mercati nelle ultime settimane. Infatti è quello, esattamente quello che è successo in settimana con il G20 di Cannes, che non riusciva a definire bene una risoluzione per la questione greca, poi è piombata addosso appunto la questione italiana, ma soprattutto a metterci una pezza è stato giovedì Mario Draghi, che a sorpresa ha tagliato i tassi europei all'1,25%, pensando in questo frangente quantomeno di aiutare l'economia. Però come dicevi tu giustamente, i grandi vertici al momento sembrano un po' viaggiare, non dico nel vuoto, ma in ogni caso in una situazione di grande difficoltà. Vedremo se in settimana appunto Eurogruppo ed Ecofin riusciranno quantomeno a mettere a punto ad esempio il meccanismo per rafforzare la potenza di fuoco del cosiddetto fondo salva stati. Anche lì ancora non si riesce bene ad avere un dettaglio del contributo dei singoli stati, chi vuole aiutare ad implementarlo ulteriormente, chi invece vuole definarsi da questa operazione. tutto questo naturalmente il mercato non lo aiuta, Simone. Grazie Deborah Rosciani, e naturalmente ti ritroveremo nel corso della giornata lungamente con tutti gli aggiornamenti di borsa, con l'apertura di mercati e naturalmente con Salvadanaio subito dopo il GR delle 12. Grazie Deborah, buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie. Prima edizione. Come si diceva, alleggeriamo un pochino, parliamo degli European MTV Music Awards. Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Ancora Lady Gaga è stata ancora una volta lei la protagonista assoluta degli MTV European Music Awards di Belfast. Ben 4 premi. Dopo il successo dello scorso anno a Madrid, dove era apparsa solo in collegamento, questa volta Stefani Germanotta era alla cerimonia in carne ed ossa e con la sua Miss non poteva certamente passare inosservata. Si è infatti presentata a ricevere il premio come miglior artista femminile con un abito a forma di ruota argentata e un cappello maschera circolare nero che le copriva completamente il volto. Lady Gaga ha ricevuto il premio per la miglior canzone Born This Way, come che è quella che state sentendo, e quello per la miglior artista, battendo la concorrente Adele, grande sconfitta della serata, forse un po' immeritatamente, ma anche ha battuto anche Jennifer Lopez, Beyoncé e Katy Perry, quindi era in buona compagnia. Lady Gaga ha ottenuto poi anche il premio per il miglior video, sempre per Born This Way, e il nuovo riconoscimento per l'artista con più fan. Davanti agli 8.000 dell'Odyssey Arena a presentare lo spettacolo aperto dai Coldplay c'era la giovane Selena Gomez, che aveva promesso uno show spumeggiante, e a questo ha dato certamente una mano uno spettatore che, beffando la sicurezza, si è presentato nudo sul palco. È andata bene anche al fidanzato della Gomez, l'idolo delle teenager Justin Bieber ha infatti portato a casa ben 2 premi, come quello per miglior artista maschile e quello come miglior cantante pop. 2 premi anche a Bruno Mars. Eminem ha bissato invece il successo dello scorso anno come miglior cantante pop. Miglior rock band di Linkin Park, mentre Katy Perry ha ottenuto soltanto il Best Live. Infine Global Icon Award ai Queen, a 40 anni dalla nascita di Freddie Mercury. Ad aprire la serata erano stati Coldplay e i Red Hot Chili Pepper hanno suonato dalla Ulster Hall. Durante la serata è stato anche lanciato un video tributo a Amy Winehouse e infine, per quanto ci riguarda, i Moda hanno vinto il Best Italian Act, premio che lo scorso anno aveva ottenuto Marco Mengoni. Ed è tutto. Grazie dunque Adriana Fracchia, il consueto strappo di giornale che sentite di sottofondo introduce Alessandro Milan. Alessandro, che eccoci qui, buongiorno. Cosa hai trovato sui giornali oggi? Vabbè, oggi c'è molta politica da una parte, perché ci sono le porte girevoli, no? Il momento delle porte girevoli, c'è chi va di qua, c'è chi va di là. Sai come ieri tu eri in vacanza settimana scorsa, ma il ministro Brunetta qui l'ha definita la transumanza dei parlamentari, no? Alcuni vanno di qua, alcuni vanno di là. E poi c'è anche molte polemiche. Anche degli insospettabili, naturalmente, sì, esatto, come abbiamo già raccontato. Esatto. Le polemiche ancora legate alla tragedia di Genova. Il sindaco dice non mi dimetto, ma qualcuno fa capire che potrebbero essere ore e giorni decisivi per questo. Ci sono anche, te lo segnalo, esce un libro sugli ultimi attimi di vita di Osama Bin Laden. Finalmente pare che si sia ricostruita la verità di quel blitz in Pakistan. Praticamente tutto quello che ci hanno raccontato era più o meno falso, cioè più o meno un film. Cioè praticamente, secondo questo racconto di un ex Navy SEAL, sono arrivati, sono atterrati sull'elicottero, non c'era nessuno, neanche una guardia. Sono entrati, Osama Bin Laden ha aperto la porta, li ha trovati, ha sbattuto la porta cercando di... e sono entrati e l'hanno ucciso. L'unico che ha sparato dei colpi, si è svegliato in ritardo, un po' trasandato, il guardiano ha sparato una raffica di mitra, è stato freddato. Quindi sarebbe stata di fatto un'uccisione a freddo. Sì, un'uccisione a freddo, un'operazione molto semplice, questa l'hanno definito il Navy SEAL che è stato intervistato in questo libro. Cioè sono arrivati, nessuno si è accorto di nulla, non c'era questa protezione che è stata detta in primo momento a Bin Laden, è stato ucciso così. Questo però ovviamente è reso conto in un libro. In un libro. Questo ed altro naturalmente in 24 mattino, subito dopo il giornale radio delle 7, con il quale noi ci risentiamo tra poco. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottone in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Appunto, ci sentiamo tra poco.